fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci siamo finalmente, oggi sarà la trasmissione delle grandi rivelazioni soprattutto per chi ci ascolta dalla radio, come sempre ha ascoltato la radio negli ultimi 100 anni più o meno, da quando esiste qualcosa che si può ascoltare, e quindi non sa esattamente cosa accade, come accade, in che maniera noi ci mettiamo in relazione con una parte importante di questa trasmissione, che sono quelli che ascoltano la radio via computer. Io spesso ho pronunciato un termine che poteva sembrare astruso ed esoterico per chi non ne conoscesse la profonda radice, ma sempre meno però, perché ultimamente di Facebook si sente parlare tantissimo. Basta andare in un autobus che è facile sentire due signore che si dicono: o tu apri il profilo, poi mi chiedi l'amicizia, poi ti rispondo, poi mi mandi le foto. Insomma, è un nuovo gioco collettivo. Pensate che è stato inventato Facebook, che in realtà è il libro delle facce, è un'usanza nei campus, nelle università americane, di fare alla fine di ogni corso un libro con le facce di tutti gli studenti di quel corso. E un giorno, nel febbraio del 2004, uno studente 19enne dell'università di Harvard ha pensato, si chiamava Mark Zuckerberg, di trasformare questo gioco e metterlo in rete, creare un sito interattivo in cui le persone potessero ricercare i vecchi compagni di università. Beh, da allora oggi è diventato il grande gioco collettivo, e in questo grande gioco collettivo, come al solito, noi che siamo appassionati per le protesi emozionali attraverso strumenti artificiali, noi italiani, dico, siamo in testa. Leggo proprio in questi giorni che l'Italia è il paese leader nella crescita di Facebook, più 135% di utenti che si iscrivono a questo giochino in internet. La febbre per Facebook, si chiama social network questo tipo di sistema, una grande rete di comunicazione sociale, quindi non gestita se non da chi mette a disposizione lo strumento per mettersi in relazione, che è una pagina in cui si possono mettere foto, si possono mettere informazioni, in cui giorno per giorno ognuno annuncia al mondo quello che sta facendo in questo momento. Sto cucinandomi le zucchine, mi sono alzato ma non ci voglio andare a lavorare, mi sento triste. Sono tutti messaggi subliminali, perché i tanti amici, tanti che ogni giorno chiedono amicizia, vadano lì e dicono: ma ci sono io, ti posso offrire un valido aiuto, sono a tua disposizione. Beh, il social network Facebook in Italia ha fatto registrare 1.369.000 visitatori, un incremento del 961%, pensate cos'è che può aumentare del 961%. Agosto ha mantenuto il primato di tutti, d'agosto, di tutti i social network in Italia, e quindi gli italiani sono appassionatissimi di social network. Beh, noi siccome di questo giochino ne parliamo da parecchio tempo, in questo siamo contenti di avere un primato. Da aprile lanciammo l'idea che attraverso Facebook gli ascoltatori potevano riunirsi, potevano creare dei luoghi misteriosi attraverso la nostra penisola per poi convenire tutti in un grande raduno nazionale. Beh, noi da questo punto cominciamo a parlare, 800 24 00 24, di questo mondo misterioso che già ci sta ascoltando, di cui presto sentirete le voci. Questo social network è sicuramente atipico rispetto agli altri. I just want some friends on Facebook. Senti, ma com'è questo Facebook? Fighissimo. Perché comunque hai dei scambi di tutto, con gente che conosci, che non conosci, si fanno nuove amicizie. Su qualsiasi altra piattaforma virtuale si tende a nascondere la propria identità, qui si tende addirittura ad esaltarla. Facebook. Sono online 24 ore su 24 da Londra. Beh, sono, diciamo, quasi venuta apposta per Facebook, per questo party. I'm getting bored of Facebook. Quando iniziamo noi era una cosa abbastanza sconosciuta, le relazioni virtuali, interpersonali attraverso computer si svolgevano principalmente su altri strumenti simili come MySpace, che è molto più legato al mondo giovanile, dedicato allo scambio della musica, o i vari messenger o i vari sistemi attraverso cui le persone si incontravano e scambiavano impressioni. Ma in Italia è esploso improvvisamente Facebook, tanto che cominciano a nascere le prime ipotesi di alienazione, sono usciti grandi pezzi in quest'ultimo momento, come accadde un anno fa per Second Life, adesso anche su Facebook la stampa si è scatenata, l'ha scoperto come il fenomeno cyberfighetto del momento, quindi è sempre materia per riempire pagine di giornali. Addirittura sono usciti i primi moniti degli psichiatri, degli psicologi: attenzione alla dipendenza, attenzione al senso di smarrimento che coglie chi pensa che l'amico nel social network sia veramente un amico. Le classificazioni degli utenti, gli utenti di Facebook si dividono, vedo un pezzo sul Corriere della Sera, in nostalgici, quelli che si commuovono a vedere le foto dei loro compagni di classe di tanti anni prima, i lati lover virtuali, ne abbiamo già parlato giorni fa, sono i serial killer dell'innamoramento veloce, coloro che vanno alla ricerca di relazioni intense, non soltanto virtuali, i cuori infranti, quelli abbandonati, lasciati, sfigati, che vanno lì e trovano una, cercano una spalla su cui appoggiarsi e piangere, gli insoddisfatti, quelli che non sono contenti della propria vita e cercano alternative ma non hanno mai coraggio di fare il passo oltre, e quelli che si fanno pubblicità, naturalmente gli uffici stampa che mettono i volti dei personaggi noti ma nessuno mai risponde se non un automatismo, e quelli con l'alter ego, cioè quelli che si divertono a essere qualcun altro, i tanti che dicono, si fanno un profilo, simulano mettendo la foto di essere un grande divo della canzone, dello spettacolo, della politica, ma si prendono gioco di chi a questo crede. A me questa cosa all'inizio piaceva tantissimo. Ci metto la mia faccia, il mio nome, il mio cognome, aggiungo tutti gli amici. Beh, io provavo con lei, però vabbè, poi è nata l'amicizia, Amy. Gli amici che vi fate su Facebook non sono amici, perché è un copia e incolla. Io con i miei amici ci esco a cena, ci vado a bere una birra, i miei amici li tocco, le mie amiche le guardo negli occhi. Hanno iniziato ad interagire con me, con le mie foto, con la mia vita personale. Gente che magari se io la incontro per strada non la saluto nemmeno. La cosa bella è lo stile facebookiano, per cui non c'è una lista d'ingresso, non c'è selezione, chiunque vuole entrare può entrare a questa festa. E naturalmente quello che doveva essere un sistema individuale per mettersi in relazione con altre persone, per stabilire relazioni su piani semplicemente scritturali, scrivendosi messaggi e scambiandosi foto, è diventato un motivo di aggregazione. Comincia a nascere la moda, che ahimè forse abbiamo lanciato noi per primi, abbiamo precorso, dei grandi raduni di Facebook, quindi masse di assatanati con le telecamere della televisione che danno dignità all'evento, si incontrano in grandi discoteche d'Italia, ce n'è stato uno a Milano, uno a Roma, ma in tutta Italia si parla di raduni di Facebook. La politica ha scoperto Facebook, è una maniera per far parlare di sé, perché i giornali parlino appunto di eventi politici, anche se come tutti gli eventi che accadono in rete il margine di ambiguità è enorme. Vi faccio un esempio, oggi leggo due notizie contrastanti rispetto al successo che hanno iniziative politica in Facebook. Su Repubblica leggo un pezzo che sancisce il trionfo del social network riguardo all'opposizione al ministro Gelmini. Dice: in termini numerici quelli che si uniscono più attraverso la rete sono gli studenti che stanno facendo la campagna contro il decreto Gelmini. Su Facebook spopola la causa a favore dell'istruzione e della ricerca. No alla legge 133, conta 80.000 adesioni. Naturalmente è una campagna di cui Repubblica si fa fortemente carico. Però leggo su... Ho avuto un attimo un momento in cui mi era andata via l'audio, ho approfittato per tossire, ma avete sentito il mio colpo di tosse. Naturalmente però come controcanto leggo su Libero oggi una notizia data dall'agenzia di stampa Il Velino, Per cui la ricerca del Partito Democratico di adepti su internet sarebbe piuttosto debolina, dice il Velino, dice che la pagina Salva l'Italia, o almeno Facciamoci Sentire, conta appena 8 iscritti. Un'altra pagina dedicata alla manifestazione che dovrebbe esserci appunto fra qualche giorno al Circo Massimo conta soltanto 5 iscritti. E anche se Veltroni ha una pagina su Facebook dove conta oltre 9.000 amici, mi sembra strano che più di 5.000 non se ne possono avere. Comunque sarà un gruppo, probabilmente sta fortemente pubblicizzando la sua iniziativa politica, però sembra che non ci sia un grande afflato. Insomma, ognuno la dice come vuole, perché stiamo parlando di un mondo impalpabile. 800 24, ricordo il 800 24 0024, ricordo il nostro numero verde. Cito già i primi segnali che ci stanno arrivando su Facebook. Stefano dice che Facebook è un'ottima evoluzione dei suoi predecessori. Ricordo mai conosciuto Powwow nel 94, è stata la mia prima esperienza interattiva e di chat. Da allora internet si è evoluto e cresciuto, ma molte cose non sono cambiate. Se le piattaforme cambiano, quello che non cambia è che si finisce quasi sempre a letto con qualcuno. Vabbè, oddio, che questo succeda quasi sempre mi sembra un dato un po' azzardato, forse allude alla sua esperienza. Geronimo, buongiorno. Coletti. Sì, la sto ascoltando. Ma le aziende l'hanno capita questa cosa, però, perché è importante capire che questi strumenti di social network, oltre ad aggregare, sono, come dire, dei terreni di fertile persuasione per le aziende. E questo è un peccato, secondo lei? Ma è un peccato. Voglio dire, innanzitutto diciamo che Rosenstein, uno dei fondatori di Facebook, l'ha detto a chiare lettere, l'ha dichiarato proprio su Facebook. E il fatto che lui comincerà adesso un secondo lavoro, diciamo per scherzo, e si occuperà di strumenti proprio per le aziende. Ma scusa, non vedo il lato negativo di questo. Lui ha messo a disposizione un giochino a disposizione dell'umanità, evidentemente andando incontro a un desiderio di relazionarsi. E perché dovrebbe farlo gratis? È giusto che ne tragga profitto, secondo me. Io sono perfettamente d'accordo con lei, tant'è che normalmente io mi occupo di consulenza per le aziende, di ufficio stampa, e ho cominciato a usare Facebook anche per il mio mestiere. Ma lei pensi, lei può mandare un avviso a 10.000 persone contemporaneamente, quando mai avrebbe potuto farlo prima? Beh, prima lo potevamo fare, basta sapere usare un po' la tecnologia, lo facevi con l'email, lo facevi con degli strumenti un pochettino, diciamo, più sofisticati che l'utente finale non aveva. Però in effetti ha ragione lei, cioè io oggi riesco a mandare un messaggio a 10.000 persone però altamente profilate e che comunque sono collegate a me, quindi se gli mando un messaggio, diciamo, poco interessante, perlomeno non sono così maleducate da dirmi: guarda, non mi interessa, non mi mandare più. Poi lei ha detto una parola magica, molto giusta, spontaneamente profilate, persone cui vede la faccia, conosce le abitudini, conosce lo stile, di cui sa tutto. È manna, immagino, per lei una cosa del genere, non le costa nessuna fatica, e tutto sommato soltanto il tempo di conoscere l'applicativo, di farsi conoscere. Io stesso faccio la stessa cosa, biecamente. Io sto facendo un programma radiofonico usando unicamente storie, sollecitazioni, idee, invenzioni, ospiti che vengono dalla social network. Sì, però con lei funziona, perché lei fa una trasmissione interessante e perché comunque la sua immagine nei confronti del web e dell'utenza è un'immagine positiva. È inutile che i politici ci provino, perché è come quando io vado a manifestare sotto il Parlamento, sotto il Senato, e quelli non mi ascoltano, non aprono nemmeno la finestra. Poi però pensano di entrare dentro il web e in Facebook, dire la loro e tutti l'ascoltano. Sì, allora, questo accadde anche un anno fa, quando Di Pietro si fece l'isola in Second Life, mi ricordo. Allora noi giocammo, andammo nella sua isola, devastammo la sua camera da letto, facemmo una festa a casa sua, mentre gli uffici stampa erano molto tesi a raccontare questa meravigliosa apertura della democrazia in Second Life, che in sé fa sorridere chi conosce il mondo. Gli uffici stampa, soprattutto quelli politici, non hanno un gran senso dello humor, in effetti. Comunque, per me è una manna, perché io oggi continuo il lavoro classico parallelo di invio di comunicati stampa e contatto con i giornalisti attraverso l'email, attraverso il telefono, però sono, diciamo, collegato ad alcuni giornalisti su Facebook ai quali mando delle informazioni in maniera più disinvolta e con i quali ho un rapporto più privilegiato. Tra l'altro, tra pochi giorni ci sarà un evento a Milano interessante, che è l'incontro di tutte le aziende e le agenzie che fanno comunicazione interattiva. Si chiama IAB Forum. Sì, infatti lo so, ma non mi hanno invitato, quindi no, ma non si perde, non è una cosa molto interessante. Sì, nessun dubbio, non mi perdo nulla, perché ho visto in internet quello che hanno detto l'anno scorso. Mi sembra una grande kermesse in cui si dice: oh, che bella la rete, quanto è favolosa la rete, che stupenda la rete, perché il mondo non capisce, deve investire i suoi soldi in rete. Se non li investe, evidentemente non vede ancora il tornaconto giusto, per riuscire a investirle in beni concreti e materiali. Però serve, soprattutto santifica molti guru del pensiero in rete. Senz'altro, ma quest'anno hanno un titolo che è interessante: sesto potere, ovvero quando l'azienda è il target del consumatore. Sì, noi siamo stati abituati per 50 anni che le aziende imponevano i loro prodotti, la loro comunicazione, la loro pubblicità, e il consumatore, come una volta si chiamava coach potato, cioè quello che stava sul divano, mangiava le patatine e guardava la televisione, il consumatore entrava nel supermercato, prendeva il prodotto che aveva davanti, non gliene fregava assolutamente di che marca fosse, ma siccome era la pubblicità lo prendeva. Oggi invece il consumatore impone alle aziende di cambiare prodotto, impone alle aziende di fare dei prodotti che sono, come dire, altamente specializzati o comunque, ripeto il termine, profilati per loro. E quindi le aziende, concludo e stringo il suo intervento, che già mi sembra intuire come va a finire, devono necessariamente acquisire degli strumenti teorici, degli strumenti di cultura di questo mezzo, perché sennò semplicemente si dicono e si cantano oggi quello che in realtà era un dato già scontato almeno 5-6 anni fa. Sono sempre un passo indietro, sembra, rispetto all'evoluzione del mezzo, di cui in realtà chi lo vive, chi lo frequenta, chi lo conosce ne sa molto di più. Piano con Facebook, perché io sono mesi che voglio cercare qualcuno e non riesco a trovare nessuno che mi conosce. Sa perché? Magari sono italo-argentino, perché magari quelli della mia generazione sono tutti morti di AIDS o di overdose, non so per che cosa. Però quelli che hanno fatto la scuola, l'università con me, non riesco a trovare nessuno. Ho al telefono una persona che voi già conoscete, ma a me piace chiamare con ricorrenza le persone che reputo intelligenti e in sintonia nell'approfondire certi problemi, non sono moltissimi, devo dire, nel nostro paese. Andrea Rossetti. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, Andrea è professore di filosofia e informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Andrea, ti ho lasciato in ascolto dell'inizio di questa trasmissione, poi continuerai a stare con noi fino alla fine, ma vediamo se riusciamo a fare un punto rispetto alle diverse percezioni che ti ho fatto ascoltare. L'imprenditore, anzi il consulente, che capisce subito che le aziende stanno nasando che accade qualcosa di interessante, ma ancora non hanno gli strumenti culturali per trasformarlo realmente in profitto. Gli italiani impazziscono con il nuovo giochino. Come siamo diventati cultori della protesi telefonino, siamo diventati improvvisamente, noi che siamo uno dei paesi più arretrati riguardo alla conoscenza dei mezzi informatici, il paese più avanzato nello sviluppo di Facebook. Come te lo spieghi? Ma c'è un dato interessante, secondo me, che spiega questa cosa, una statistica anche qui. Facebook si sta percentualmente diffondendo molto di più nei piccoli centri che non nelle grandi città. Ad esempio Pavia, che è la mia città, è uno dei centri in Italia, una delle piccole città in Italia in cui Facebook è più diffuso. Perché? Perché Facebook in realtà favorisce una comunicazione tra persone che in qualche modo già si conoscono. In questo senso è molto diverso da Second Life, no? Dove io potevo conoscere persone che stavano molto lontane, o lo usavo per conoscere persone che sennò non avrei conosciuto. In realtà la maggior parte delle persone usa Facebook non per conoscere altre nuove persone, ma per restare in contatto con le persone che già conosce, allargando in realtà molto di poco la sua cerchia di abituali conoscenze. Beh, tu ne fai un uso diverso ovviamente, no? Perché tu fai un uso di Facebook che è non direi tipico. Sì, sì, ma lo ammetto. Medio, in realtà. Però scusa, la missione mia professionale è saggiare, sperimentare, vedere le nuove maniere di comunicare per poi trarne fuori delle conclusioni. Quindi tu mi dici, Andrea, è molto interessante questa cosa, che in realtà amplifica e concretizza una nostra vocazione strapaesana, quello dovrebbe essere uno strumento di allargamento degli orizzonti. Sì, esattamente, proprio questo, insomma, permette di restare in contatto, di sapere quello che fanno, hanno fatto, dove sono finiti i nostri amici che non vediamo da molto tempo, che se ci pensi proprio esattamente lo scopo per cui Facebook è stato inventato, insomma, no? Siamo in una direzione in cui si sta creando veramente una sorta di villaggio globale ma locale, nel senso che se Facebook effettivamente continuerà ad esistere, e mi sembra in realtà uno strumento che ha buone possibilità di esistere nel tempo, vedremo avremo in qualche modo modificata la nostra percezione della socialità, perché noi resteremo davvero potenzialmente per tutta la vita in contatto con persone che abbiamo conosciuto, che so, al liceo, e in passato avremmo sicuramente perso di vista. Questo è un fenomeno, secondo me, molto interessante. Siamo agli inizi, ovviamente. Siamo agli inizi, perché... e poi ci lasciamo perché dobbiamo dare la linea alle notizie di borsa. 800 24 00 24. Mi viene da pensare, questa è la domanda che lascio per le risposte fra un istante, quindi se aumenta lo strapaese diminuiscono le possibilità di contaminazione, di conoscere persone nuove e orizzonti nuovi. Avevo detto che mi sarei iscritta a Facebook per venirti a trovare e non ci sono riuscita, perché il mio tempo davanti al computer o è nei buchi mentre sono in ufficio oppure quando sono a casa. E ieri, mentre stavo a casa cercando di configurare, chattando con mio marito, che in questo momento è fuori dall'Italia, quindi usiamo il Messenger per parlarci insieme ai bambini, chiaramente mi si è bruciato il sugo e i bambini mi hanno fatto una bella ramanzina perché dicono che perdo tempo davanti al computer invece di pensare alla cena. Perché bisogna essere a tutti i costi all'avanguardia con i nuovi strumenti mass mediatici, con quello che la tecnologia oggi ci offre? A me sembra che lei abbia una sorta di quello che Leopardi chiamava atteggiamento delle magnifiche sorti e progressive, cioè tutto ciò che porta la tecnologia diventa per lei una sorta di totem, veramente, al quale bisogna inchinarsi e bisogna prenderlo perché non se ne può fare a meno. Ma chi l'ha detto? Lo dico io, ne sono perfettamente convinto, ha colto nel segno questo ascoltatore. Oggi la tecnologia è la chiave essenziale che spiega la nostra civilizzazione. Se non si conoscono gli strumenti di relazione che passano attraverso protesi meccaniche, elettroniche, informatiche, non si capisce quello che è lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo precede sempre quelli che sono i tracciatori, gli indicatori dello spirito del tempo. Non è guardando la televisione, leggendo i giornali, seguendo la letteratura che si capisce realmente dove sta andando il mondo. Si capisce nelle anticipazioni, nel senso profetico che hanno le macchine. Non so perché sia così. Questo è il mio punto di vista. Poi bisogna anche stare molto attenti. Chiamate 800 24 00 24. Parliamo di Facebook, parliamo dell'ultima più fantastica e più usata protesi emozionale, soprattutto per gli italiani. La crescita di Facebook in Italia è esponenzialmente maggiore a quella di tutti gli altri paesi del mondo. Ci sono anche gli aspetti negativi, o perlomeno il fiorire di una leggenda metropolitana costante che segue sempre l'evolversi di un mezzo di comunicazione elettronico. A Londra un marito ha ammazzato a colpi di mannaia la moglie, soltanto che si è accorto che lei aveva cambiato il suo status in Facebook e aveva messo che era single, perché si erano lasciati. Ma ancora una notizia più sconvolgente che gira oggi sulle agenzie: in Giappone pare abbiano arrestato una signora perché ha massacrato l'avatar del marito in un gioco di ruolo interattivo tridimensionale, e pare che la dimensione dell'omicidio rispetto alla proiezione avatarica del marito abbia lo stesso e profondo senso di azione criminale che l'avesse ucciso realmente in carne ed ossa. Fabio, buongiorno. Fabio? Pronto, buongiorno. Cosa teme lei? No, prima di tutto tutta questa tecnologia per poi farmi aspettare 13 minuti al telefono, francamente fa un po' ridere. Comunque... signore, guardi, il ritmo della trasmissione lo decido io. Lei è così cortese? Sì, se no, altro da fare può anche andarsene come vuole. No. E allora dica quello che deve dire. Allora, io dico questo qui. Secondo me questa storia di Facebook è una cosa a guardare con certo sospetto. Prima perché somiglia a una schedatura di massa, un'autoschedatura di massa. Secondo perché... Sì, ma non è che lo prescrive il medico a qualcuno con una pistola puntata alla tempia? So, ma si può anche dire, no? Sì. Poi secondo anche un altro dato di fatto, è che la cosa più pericolosa sono i furti di identità, che oggi vanno tanto di moda, per cui uno si potrebbe trovare intestato di una macchina che non ha mai comprato grazie al fatto che mette tanto di fotografia, di dati personali in rete. Io personalmente, per esempio, nel computer non metto nemmeno una mia foto di nessuno dei miei familiari. Lo sa che se io vengo sotto casa sua e guardo la targa della sua macchina, in 5 minuti so esattamente, certo, lei chi è, dove è nato. Nome, no, basta collegarsi al sito internet dell'ACI per dire... Sì, lo so, però una cosa è metterci anche la foto e altri particolari, sì, per sì. Cui dopo fanno fede quelli lì, cioè sono una maggiore conoscenza della persona, no? Quindi lei vorrebbe dare un monito agli utenti di Facebook, attenzione, ma l'abbiamo detto più volte, a ciò che mettete... In un forum, su un giornale, ma non dare mai i miei dati personali... la foto addirittura, dalle quali loro poi costruiscono veri e propri inghippi di quelli cioè che lui si trova a mezzo mare di guai senza... Ah, quindi lei ha paura che qualcuno, rubando l'identità altrui, con questa identità possa compiere qualche reato. Va bene, certo. Fabio, grazie. Andrea Rossetti, professore alla Bicocca di filosofia informatica e giuridica, tocchiamo velocemente anche questo punto di identità, uno dei temi bollenti, oltre quello dell'alienazione, dei cuori infranti, dei cacciatori di virtù, di signore, fanciulle, casalinghe, nonne, mamme, zie, nipotine. In Facebook c'è anche quello del timore, a volte molto fondato, che qualcuno metta troppi dati di sé. Sì, questo è sicuramente un problema, anche perché in realtà le leggi che sono state scritte sulla privacy non avevano previsto il fenomeno di persone che mettessero spontaneamente online i propri dati, no? Le leggi sulla privacy sono pensate per difendere l'utente a cui vengono in qualche modo, di cui vengono in qualche modo diffusi i dati, senza che lui ne sappia qualche cosa. In realtà su Facebook io metto esattamente quello che so. So esattamente quello che metto. Il rischio del furto di identità effettivamente esiste. Teniamo presente che però la maggior parte dei furti di identità ancora oggi, qui sono statistiche, le potete trovare sul sito della CIA, quello americano, la maggior parte dei furti di identità avviene con strumenti a bassa tecnologia. Cosa vuol dire? Vuol dire che in molti casi il furto della carta di credito avviene in un negozio piuttosto che attraverso la rete, il furto della mia foto avviene attraverso una telecamera piazzata in un negozio piuttosto che attraverso Facebook. Quindi è vero, bisogna fare attenzione, però teniamo conto che nella maggior parte dei casi percentualmente il numero di furti di identità che avviene online è minore rispetto a quello che avviene appunto fuori dalla rete, diciamo, con strumenti a basso contenuto tecnologico. Invece Paolo, abbiamo al telefono Paolo che si pone un altro problema, sembra paradossale, metafisico, ma è un problema che comincia a sentire soprattutto l'utente di antica generazione dei social network. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Sì, il problema che mi pongo io è quello della morte su Facebook, nel senso che adesso Facebook è piena di entusiasmo, di cose da fare, la gente mette foto dei propri viaggi, delle vacanze, ma cosa accade se qualcuno muore, insomma? Cioè, rispetto al passato in cui i personaggi pubblici solo vivevano dopo la morte con i film, adesso restano i segni del tuo passaggio nel mondo attraverso un sito in cui c'è un vero e proprio diario, che poi nessuno cancella, nel senso che per cancellarlo ci vuole la tua password. La password, per esempio, è una cosa che uno si porta anche nella tomba, secondo me, nel senso è molto personale. Lei solleva un problema veramente interessante, soprattutto nuovo. Per quanto riguarda Facebook, lo dico, ma non perché sia un raffinato conoscitore, perché me l'ha mandato ieri proprio Andrea via mail questa segnalazione. Nelle condizioni d'uso di Facebook c'è scritto che la notifica del decesso dell'utente, generalmente, ma non è obbligo da parte nostra farlo, manteniamo il profilo attivo per un periodo di tempo da noi determinato, sotto uno speciale stato pre-memoriale, per permettere agli altri utenti di scrivere o leggere messaggi. Insomma, Facebook dice, facciamo una sorta di veglia funebre, se qualcuno ci comunica che l'utente è morto, lasciamo la sua pietra tombale ancora attiva, di modo che la gente possa lasciare il suo ricordo. Non so quanto sia esattamente questo periodo, ma riguardo la sopravvivenza di persone morte in Facebook, è successo a persone che conosco io, è successo nella cerchia delle persone che io conosco, e succede spessissimo che quando noi lasciamo il mondo concreto lasciamo anche una serie di punti interrogativi, le nostre password, le tante password per rispondere alla posta elettronica, dove si lasciano, a chi si lasciano, chi ha diritto di richiedere la password quando noi siamo morti. Beh, per rispondere a questa domanda abbiamo un nostro ospite che è senz'altro titolatissimo per farlo. Abbiamo un notaio, il notaio Francesco Gallotti da Milano. Notaio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei ha sentito come è stato posto il problema. È veramente una questione che comincia a essere interessante anche dal suo punto di vista? Ma certo, mi sembra che la questione sia quella di capire come venga trasmessa la password agli eredi, in sostanza. Ecco, quindi per rispondere però forse bisogna prima chiedersi che cos'è in realtà una password, che ritengo sia in definitiva un metodo di accesso a una risorsa informatica in generale, in questo caso parliamo di Facebook. Sì, una chiave di accesso al luogo dove io metto la mia corrispondenza, alcuni miei dati privati, esatto. Chi apre vede tutto quello che io ho avuto come relazione, come interscambio di email, di messaggi con altre persone negli ultimi tempi. Esatto, e quindi si potrebbe parlare della password di accesso alla posta elettronica, ma anche al PC aziendale, ecco, per intendersi, e questa password in realtà è attribuita per accordo tra le parti, quindi dopo che è stato concluso un accordo tra il titolare, ora defunto, e il gestore della password. Quindi in prima battuta bisogna andare a vedere, per vedere che fine fa la password alla morte del titolare, bisognerebbe andare a vedere qual è il contratto, che sono di solito le condizioni generali che nel caso di Facebook o di altri gestori... In questo momento, signor notaio, a meno che non ci sia un lascito preciso, io vado dal notaio, lascio tutte le mie password, dico alla mia morte queste password devono andare, che ne so, a Riccardo Alemanno, almeno sono sicuro che le distrugge prima che ci metta le mani sopra qualcuno di famiglia, oppure dico queste le lascio a mia moglie. Se non c'è questo atto preciso... può un erede in linea diretta richiedere la password al momento, allo stato attuale, la password di un suo congiunto, non so, al titolare di una chat? Bisogna vedere se la password in sé è trasmissibile, quindi se queste condizioni generali prevedono, per esempio, che la password o l'account si estinguano con la morte del titolare, in questo caso gli eredi non hanno, a mio parere, nessun diritto di chiedere il rilascio in sostanza di una nuova password di accesso. Se invece le condizioni che regolano l'accesso prevedono la trasmissione, l'erede subentra in tutti i diritti del defunto e quindi, qualificandosi come erede, ritengo che abbia, sempre che si applichi la legge italiana, ritengo che abbia diritto di chiedere al gestore il rilascio di nuove password per poi eventualmente fare quello che vuole dell'account creato dal defunto. La ringrazio, notaio Francesco Allotti, perché questo farà tirare un sospiro di sollievo ai tanti che in questo momento mi stanno scrivendo. Temo fortemente che se mi dovesse succedere qualcosa, mia moglie o mio marito possa mettere le mani in quello che ho scritto e ricevuto in Facebook. Ma in Facebook ammetti anche qualche contestatore o sono tutti quanti gente che sta dall'altra parte e che ti dà ragione? E se è così sarebbe un posto parecchio noioso. Un bacio da Silvara. Sono 4-5 mesi che sono iscritto a Facebook e insomma che palle. Adesso tutte le mattine ancora a sentirti parlare di Facebook, parliamo di qualcos'altro, dai. Questa faccenda di Facebook sta diventando un po' una palla, Mi pare che ve la raccontiate tra di voi. Torniamo ai vecchi argomenti del programma, per favore, grazie. Ci mancavano soltanto le donne velate su Facebook. Se continua di questo passo, in nome del politicamente corretto, ci saranno anche presto le donne islamiche che hanno subito la castrazione femminile. Facebook is a crime when people have too much time sending me requests, IQ and brain test. It's no fucking joke. La cosa divertente, questi messaggi arrivavano a aprile. Dicendo basta, ne parliamo più, ci hai stufato, ma che è questa cosa? Oggi è sulla bocca di tutti, dagli autobus alle strade, agli uffici. La frase più ricorrente dice, ma ancora stai su MySpace, ma mettiti su Facebook. Tutti stanno su Facebook. Gli italiani stanno immediatamente scoprendo una serie di piaceri che sono sempre stati radicalmente propri della nostra natura nazionale. Il piacere di farsi i fatti altrui, quindi mettere il naso nelle vicende altrui, osservare, occhieggiare gli amici degli altri, e il piacere di prendersi gli amici altrui e di mettere a disposizione dati personali importantissimi, mostrare le proprie foto per fare schiattare gli altri. Sono sempre foto bellissime. Guardate, il maggior numero di foto vengono messe su Facebook sono le tipiche foto fatte durante le feste, durante i matrimoni, quando c'è la truccatrice privata, personale, tutte sembrano gnocchi assurde, al mare, sempre con scorci in cui non si vede la pancia, in cui si vede il profilo carismatico intenso, in cui si vede il volto abbronzato. Gli stempiati come me naturalmente tagliano la foto ad altezza sopracciglio, così lo sguardo diventa ancora più penetrante. 800240024, stiamo cercando di fare un punto, visto che oggi l'argomento nazionale, ne parlano tutti, dalla Free Press a Novella 2000, la mitologica Marianna Aprile, la giornalista di Novella 2000, che per prima, e noi segnalammo subito il fatto, cominciò a raccontare i fatti dei VIP su Facebook, superò veramente quello che è stato per anni il pregiudizio del digital divide in Italia. Gli italiani hanno superato una soglia sembrava impossibile da superare, attraverso vari governi sono tutti impegnati nel dare il computer a tutti gli italiani, insegnare la rete a tutti gli italiani. Ci è arrivato Facebook, il grande condominio nazionale. Alan, buongiorno. Ciao caro. Ciao GN, sei sempre un simpaticone. Sì, dai, andiamo al dunque, però non t'arruffianare. Non pregare che ti do una botta in testa. Vabbè, senti, se cominci a fare il... piace tanto. Dai, chi sei? Forza. Alan Mistero. Alan, dimmi. Sì, Alan Mistero, è un personaggio su Facebook noto che non mostra la sua identità. No, assolutamente, anche perché appena ho mostrato la mia identità, io mi ero iscritto inizialmente con mio nome e cognome, però poi sono stato contattato da persone, cioè il contrario dell'ascoltatore di prima, da persone che volevo evitare da anni, ex mogli, ex fidanzate, e quindi ho deciso di passare assolutamente all'anonimato, di diventare un avatar perpetuo. Quindi rientri comunque nelle categorie classificate in Facebook, ci sono quelli che vanno per mostrare con orgoglio il salottino di casa in Ciniglia o il nuovo vestituccio comprato alla liquidazione, ci sono quelli o che fingono di essere dei divi o si nascondono sotto nomi carismatici, ma il fine tuo qual è alla fine? Il fine mio è assolutamente quello di potermi esprimere liberamente. Io credo che una maschera riveli più di qualsiasi cosa. La possibilità di essere una maschera ti dà la possibilità di dire tutto quello che vuoi e soprattutto... Se l'hai voluta, se l'hai chiesta. Andrea, andiamo al punto e vediamo se è possibile di raccontare la tipicità di, naturalmente, di chi va in un social network mostrandosi asociale, non meriterebbe altro che una segata alle gambe, ma ahimè è partito automaticamente. In realtà il problema è un altro, il problema è che in questa grande euforia, in questa meravigliosa perdizione controllata degli italiani, forse qualche passo avanti su cui bisogna riflettere è stato fatto. Ma sì, guarda, soprattutto per quello che riguarda, secondo me, l'idea di privacy. Oliver Sacks, proprio il famoso neurologo, proprio in questi giorni parla di un'etica della memoria. E io credo che proprio strumenti come Facebook, che alterano artificialmente la nostra memoria, ci costringeranno in futuro a ripensare effettivamente la nostra esistenza. Insomma, dovremo sviluppare un concetto di privacy che ingloberà quantomeno strumenti come Facebook, oppure rinunciare a strumenti come Facebook. Facebook non è che è ordinato al dottore, non è obbligatoriamente dobbiamo iscriverci a Facebook o avere qualcosa a che fare. Però con ti ricordi, Facebook? Andrea, si diceva anche quando ancora il cellulare era un trend, dicevano io non lo comprerò mai, io sono stato fra i neoluddisti che assolutamente non volevano il telefono cellulare, ho resistito tantissimo e oggi probabilmente ce l'ho incorporato dentro un'orecchia, capito? Esattamente, sì. Sì, ripeto, a me Facebook, a differenza ad esempio di Second Life, insomma, su cui abbiamo spesso discusso l'anno scorso, sembra uno strumento che ha possibilità di continuare ad esistere, anche perché non ha necessità di un impegno costante, insomma, no? Io ogni tanto lo controllo, guardo, vedo cosa fanno i miei amici, aggiorno qualche cosa, l'impegno è veramente di bassa intensità, però nel lungo periodo secondo me cambierà veramente la maniera in cui noi ci relazioniamo con gli altri. Vedremo, insomma. Quindi vediamo se ho capito il tuo pensiero, ma io come sempre fingo di capire, in realtà interpreto e sovrappongo il mio al pensiero degli altri, questa è l'accusa che mi viene fatta, però ribadisco anche le mie obiezioni. Noi stiamo creando inconsapevolmente una traccia di memoria del nostro passaggio che in realtà non controlliamo nemmeno più di tanto, che si articola da solo, che sono le foto che dimentichiamo di aver messo dentro, le frasi buttate lì, i nostri stati d'animo momentanei, che nessun supporto di memoria tradizionale ha mai lasciato in memoria in maniera così indelebile. Così a un certo punto ci renderemo conto che siamo stati altro rispetto a quello che noi pensavamo? Forse anche questo, guarda, questo direi che è un'ottima osservazione, magari sì, nel senso che tra 20 anni ci sarà qualcuno che potrà metterci davanti agli occhi le foto che noi abbiamo scattato appunto 20 anni prima, oggi, e in qualche modo rimproverarci di quello che siamo oggi. Saremmo costretti probabilmente a essere in qualche modo un po' più fedeli a noi stessi o comunque meditare bene sui cambiamenti che faremo. Ripeto, è ancora presto per pensare a queste cose, poi magari domani Facebook chiude, la rete chiude, insomma in qualche modo tutto questo fantastico mondo di internet collassa su se stesso per qualche motivo e il problema non si porrà più. Però se continuerà ad esistere sicuramente io credo che avremo in qualche modo la necessità anche di ricostruire la maniera in cui noi creiamo la nostra immagine, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. È un problema più da psicologo questo, però non so se hai visto anche la cosa che ti ho mandato stamattina, ormai ci sono proprio i convegni di psicologi in cui si parla di queste interazioni attraverso realtà virtuali. Beh, come quindi... vedo che ancora una volta, ti saluto Andrea perché incombe la sigla, la profezia di Matrix trova delle sue straordinarie e contemporanee applicazioni. Se tracolla il mondo su cui abbiamo appoggiato l'immagine di noi stessi, non ci troveremo in un mondo deserto in cui non abbiamo più nulla da raccontare di noi stessi al nostro prossimo. Bella questa finale catastrofista e apocalittico, mi piace proprio per chiudere la settimana. A lunedì. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.